Non mi abituerò mai a vivere questo tempo di connessione separati fisicamente, però sento che c'è la presenza dello Spirito Santo e avverto che la presenza dello Spirito Santo non è solo in questo luogo, ma è anche nella tua casa e nella tua famiglia. Lo dichiaro nel nome potente di Gesù. Vogliamo adesso rifugiarci insieme nella sua parola. Vogliamo ascoltare quello che Dio ha da dirci in questa giornata. Quindi ti invito a prendere un block notice per prendere le tue note. Ti invito ad accomodarti con la tua famiglia e ascoltare attentamente. Togli via ogni distrazione. Che questo possa essere un tempo nel quale ti lasci benedire dalla parola di Dio. E io ho una parola che voglio condividere con voi, che è particolarmente potente questa mattina e sono certo che ci aiuterà ad attraversare questa stagione. Quindi mi accomodo con voi, prendo le note e vogliamo ascoltare quello che Dio ha da dirci attraverso la sua parola. E grazie Melissa. Vogliamo scrivere un grazie, non possiamo fare un applauso che si senta fino qui, a meno che non siete proprio nel vicinato, vi potete affacciare dal balcone, forse Fabio lo può fare e far sentire la sua voce, però vogliamo ringraziare Melissa per questo tempo di adorazione e ti ricordo, l'adorazione è potente per liberare il tuo cuore da ogni stato d'animo che non è allineato con la perfetta volontà di Dio. E sai qual è la perfetta volontà di Dio per te in questa stagione, nonostante le afflizioni, nonostante la tristezza? La volontà di Dio è che tu possa sperimentare non solo pace, ma anche gioia, anche sicurezza. E nell'adorazione alla sua presenza puoi trovare queste cose, puoi scrollarti di dosso ogni stato d'animo che dipende dalle circostanze e vivere lo stato d'animo che Dio ha da darti direttamente dal suo trono, nel tuo cuore, nella tua vita. Ora noi sappiamo che stiamo vivendo un tempo davvero, davvero molto, molto difficile, molto buio per la nostra nazione. Conte ieri, il nostro presidente del Consiglio dei Ministri, ha detto che è la sfida più grande, quella che stiamo vivendo, è la sfida più grande e più difficile del dopoguerra. È incredibile, ha paragonato in altri termini quello che stiamo attraversando come nazione a una guerra. E io credo che sia di fatto così, perché se guardiamo i numeri, e li conosciamo tutti molto bene, sono preoccupanti e portano in noi degli stati d'animo non belli. Io credo che noi tutti, all'udire i notiziari di questi giorni, è stato in un qualche modo avvolto da un'oscurità, da una forma di tristezza, di sgomento, di paura. E ieri abbiamo raggiunto quello che è stato un nuovo massimo giornaliero. Ci sono stati 793 decessi. E io ci tengo a dirlo perché sono numeri, però io vorrei che noi considerassimo che ognuno di questi numeri è una persona. E ognuna di queste persone rappresenta una famiglia che è in sofferenza in questo momento. E i contagi ieri più che mai sono aumentati e pare che la situazione non stia migliorando e non migliorerà nell'immediato. Confidiamo in Dio e confidiamo nei medici anche, nella scienza. Però quello che noi stiamo vivendo, sfido chiunque a non essere coinvolti emotivamente in tutto questo. Io devo confessare che in questa settimana più di una volta ho pianto per la nostra nazione e ho pianto per chi sta soffrendo e mi viene da piangere a pensare a chi ha perso dei cari e penso al fatto che in molti si ritrovano smarriti in questo tempo, in molti in questo tempo si trovano con delle paure, in molti in questo tempo si trovano con ansia, anche se non sono magari in una condizione di malattia, la malattia attorno a noi ed è così evidente e si respira nell'aria questa condizione di sofferenza nella nostra nazione. E credo che non sono stato l'unico a versare qualche lacrima in questa settimana. È un tempo difficile, è un tempo difficile che porta in noi insicurezza, instabilità, tristezza, paura e a volte anche ansia e per alcuni attacchi di panico. Tutte cose negative che sono diaboliche. E io voglio che noi considerassimo stamattina che la parola di Dio è Dio in persona e luce nelle tenebre. Più fitte sono le tenebre attorno a noi, più la luce di Dio brilla. E io voglio portarti, trascinarti con me questa mattina, in questo giorno, alla luce della parola di Dio. Il Salmo 119, versetto 105 dice che la parola è una lampada. La parola di Dio è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Tu puoi non essere smarrito, sì, puoi essere triste. E credo che sia doveroso anche provare empatia per chi sta soffrendo in questo momento. Ma questa sofferenza può non schiacciarci, perché in fin dei conti abbiamo la certezza che dipendiamo da una luce che brilla sempre, che nessuno mai può oscurare, nessuna malattia, nessuna pestilenza, nessuna guerra, nessun attacco diabolico, nulla può oscurare la luce di Dio e la luce della sua parola. Amen. Possiamo dire un amen a questo, puoi scrivere amen tra i commenti dichiarando che noi apparteniamo alla luce. Gesù dice: io sono la luce del mondo, e lui dichiara anche che noi siamo la luce nella terra. Noi in queste tenebre brilliamo più che mai, e io voglio portarti questa mattina alla sua luce, voglio trascinarti alla sua parola, perché vedete, la parola di Dio non è un libro antico e antiquato che riguarda popoli, storie, personaggi che sono vissuti tanto tempo fa e che non hanno nulla a che fare con quanto viviamo noi oggi. No, non c'è nessun'altra cosa che sia tanto attuale quanto la parola di Dio. E la parola di Dio, l'abbiamo visto anche la scorsa settimana, non ci nasconde il fatto che noi su questa terra attraversiamo e attraverseremo afflizioni. È Gesù che lo dice ai suoi discepoli: in questo mondo sarete afflitti, in questo mondo sarete perseguitati, in questo mondo avrete afflizioni di ogni tipo. E io voglio che noi consideriamo che in queste parole non c'è una condanna a morte o una condanna a vivere tristezza e abbattimento, ma piuttosto in queste parole che Gesù ci dice, e tutta la sua parola parla di tutto questo, noi possiamo trovare conforto, perché Dio non è smarrito, perché Dio non è sorpreso dall'afflizione che sta vivendo il mondo in questa stagione. Dio sapeva già da principio quello che sarebbe successo nel 2020. Dio sapeva già da tempi antichi quello che avremmo attraversato oggi e sa già quello che attraverseremo domani. E in Lui, nel sapere che Lui conosce ogni afflizione, ogni tipo di persecuzione, ogni tipo di tribolazione, possiamo trovare conforto, perché Lui è sovrano su tutto questo. Lui è re della terra, Lui è sovrano su ogni cosa, sulle cose che portano benessere nella nostra vita, ma Lui è sovrano anche sul male. Lui ha ogni cosa nelle sue mani. E io voglio che ci confrontiamo questa mattina con le parole di un autore della Bibbia, che è l'Apostolo Paolo, e lui, sotto ispirazione dello Spirito Santo, descrivendo la sua condizione, la condizione dei suoi collaboratori nella missione, ha detto questo in 2 Corinzi al capitolo 4. Ha detto: noi siamo tribolati in ogni maniera. Tribolati in ogni maniera. Questo tribolati significa anche schiacciati, sotto pressione, e sotto pressione da ogni lato. Questa è anche una valida traduzione che possiamo considerare quale alternativa alle parole che abbiamo appena letto. Schiacciati e sotto pressione da ogni lato. Ma ascoltate ora L'Apostolo Paolo aggiunge, ma non ridotti all'estremo, perplessi. E questa perplessità è qualcosa che può essere anche tradotto con in dubbi, in incertezze, ma non disperati. Io mi voglio fermare qui, anche se l'Apostolo Paolo va avanti con un elenco di altre cose. A me bastano queste parole per riflettere con voi sul fatto che quest'uomo di Dio e i suoi collaboratori che vivevano persecuzione, hanno vissuto persecuzione, torture fisiche, come abbiamo letto a introduzione del tempo di lode e adorazione, prigionia, pressione e stress, non solo a livello fisico ma anche psicologico, a livello emotivo sono stati sotto pressione per tutto quello che accadeva, per tutto quello che subivano, per ogni tipo di critica, per ogni tipo di tradimento che hanno subito. Loro sono stati schiacciati da ogni lato. Eppure l'Apostolo Paolo dice, noi siamo sì tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Noi non arriviamo all'estremo. Noi siamo perplessi. E io credo che noi tutti possiamo rivederci in queste parole, siamo perplessi, siamo sorpresi di quello che sta accadendo. Poche settimane fa eravamo tranquilli nei nostri posti di lavoro, a vivere la nostra routine. Io ero tranquillo nel preparare il matrimonio che tra poco andremo a celebrare, Dio volendo, il 18 luglio. E tutto questo è saltato per aria, non il mio matrimonio. Giorgia, ti amo e ti sposerò. Forse non il 18 di luglio, ma ti sposerò. Il discorso è questo, che eravamo nella nostra routine. Eppure questa routine è stata spezzata, sconvolta da qualcosa che pensavamo fosse lontano. Per un popolo, una nazione lontana da noi e che non avrebbe mai intaccato le nostre vite. Invece eccoci qua, poche settimane dopo la nostra tranquilla vita, a ritrovarci tribolati, confusi, incerti, perplessi. Qual è la parola di speranza che noi troviamo in questi versi? Che noi, figli di Dio, cristiani, dipendenti dal Re che è sempre stabile, possiamo sì essere tribolati, ma non saremmo mai ridotti all'estremo. Possiamo sì essere perplessi, ma mai disperati. Com'è possibile vivere questo? Beh, la risposta è semplice, è la fede. È la fede che ci dà questa forza e consolida le nostre giornate, le nostre vite, perché siamo ben stabili in Cristo Gesù. Io oggi ho portato con me questo che è un gioco che credo che molti di voi conoscete bene. Si chiama Jenga o Torre Traballante. E funziona così che a turno ogni giocatore si può giocare con un minimo di due persone, anche se in questi giorni mi sono ritrovato da solo a casa a giocare contro me stesso. e si possono avere tanti giocatori a turno. Quello che si fa in questo gioco è togliere un mattoncino di legno e spostarlo sopra. È meglio che non vada avanti, sennò crollerà subito questa torretta di mattoncini in legno. Però cosa succede nel fare questo? Che la torre cresce in altezza e diventa sempre più instabile. E ho dovuto pensare alle nostre vite in questo tempo. Ogni qualvolta un mattoncino ci viene tolto, noi ci sentiamo più incerti, più insicuri. E ci sono tanti mattoncini che adesso sono in gioco. Qualche settimana fa erano sicuri e stabili e davano sicurezza e stabilità nella nostra vita. Ma adesso questi mattoncini ci sono stati tolti e non abbiamo più la certezza del domani. E tutto questo porta ansie e paure, porta insicurezze nelle nostre vite. E quello che tutti coloro che giocano a questo gioco sanno che non devono mai fare e intaccare la base. A un certo punto sei costretto a farlo, però se in tre battute tu volessi perdere a questo gioco, beh, basterebbe togliere i tre mattoncini che sono nella parte più bassa della torre. Questi tre mattoncini reggono tutto, e quindi vedete, nel momento in cui li vai a toccare, l'intera torre crolla. Il motivo per il quale ho voluto portare questo gioco e farvi vedere questa immagine è perché io vorrei che noi ci assicurassimo nella nostra vita che i mattoncini che reggono l'intera nostra esistenza, la nostra intera persona, la nostra quotidianità, il nostro presente e il nostro futuro siano dei mattoncini che non vengono rimossi. E ci sono delle basi solide che tu puoi mettere nella tua vita e puoi mettere anche delle basi che vacillano. E io credo che il mondo intorno a noi vacilla ed è disperato perché la maggior parte delle persone poggia la sua intera vita su dei mattoncini, su delle basi che a un certo punto vengono scosse, se non addirittura rimosse. Se vuoi una vita stabile, come quella dell'Apostolo Paolo, se vuoi una vita stabile, come quelle dei personaggi biblici che hanno vinto, che hanno superato, che hanno gareggiato portando a trionfo l'intera loro esistenza terrena, allora è importante che tu basi la tua vita su qualcosa che si mantiene in eternità. E l'unica cosa che è solida per l'eternità è la parola di Dio ed è la fede in Cristo Gesù. È la fede che ci dà stabilità. Che cos'è la fede? La fede io vorrei che noi comprendessimo bene che cosa sia. La fede non è solo credere in Dio. Tante persone credono in Dio. Ma questa non è fede, non è la fede biblica, la fede che ci viene descritta nella parola di Dio e che dà solidità e che ha dato stabilità all'Apostolo Paolo nelle sue afflizioni. La fede che ci descrive la parola di Dio è la condizione di colui o di colei che crede in Dio, che crede in Dio e ha una fiducia tale in questo Dio da affidargli ogni cosa. Questa è fede. È la fede di coloro che credono in Dio, ma non solo a livello teorico, ma nella pratica loro vivono questa fiducia arrendendo, affidando a Dio ogni aspetto della propria vita. La fede è arresa totale e non è un'arresa passiva, non è un abbandono, una resa perché sei stato sconfitto, anche se l'amore di Dio a volte è così invadente, così travolgente che ti senti veramente sommerso da esso e ti devi per forza arrendere, ma non è una resa passiva, la fede è piuttosto una resa volontaria, attiva. È una resa che tu scegli di vivere ogni giorno, tu ti arrendi perché sai che è la cosa migliore che scegli che puoi fare nella tua giornata. La fede è tutto questo, la fede, lo ripeto, è la condizione di chi crede in Dio e ha una fiducia tale da affidargli ogni cosa, da affidargli la propria economia, i propri pensieri, le proprie decisioni, il proprio matrimonio, la propria famiglia, il proprio lavoro, la propria giornata, ogni cosa, il cucinare, l'uscire, l'entrare, il rimanere in casa, gli affida tutto, perché questa è fede vera, questa è la fede che poi rende stabili. La fede è il contrario di indipendenza. La fede è il contrario di indipendenza, la fede è il contrario di autonomia, la fede è contraria all'autosufficienza. E noi viviamo in un mondo dove siamo molto individualisti e dove viene promossa molto questa indipendenza, questa autosufficienza, ma questa autosufficienza non regge tutte le prove. Quando viene la burrasca, quando viene la tempesta, quando arrivano le afflizioni, quando arrivano le tribolazioni, quelle serie che ti scuotono da cima a fondo, la tua autosufficienza non basta. Perché tu e io siamo vulnerabili, siamo fragili. L'unica cosa che ci permette di reggere ad ogni tempesta e ad ogni afflizione è la dipendenza a Dio, è la resa completa a colui che rimane saldo e fermo in eterno. La fede non è un aspetto della nostra vita, la fede non è come, che ne so, il lavoro, non è qualcosa che affianchi ed è alla stessa portata del lavoro, delle relazioni o delle tue passioni, della tua musica, del piacere per l'arte, di qualsiasi cosa, di quello che vivi, non è un settore della tua vita. La fede non è un aspetto della tua vita. No, non può essere questo. Se deve reggere l'intera tua vita, è la base sulla quale fondi ogni cosa. La fede di fatto coinvolge l'intera tua vita e la tua persona, così che il tuo lavoro è condizionato dalla tua fede, le tue relazioni sono condizionate dalla tua fede, dalla tua fede fluiscono anche la scelta delle tue passioni e vivi il piacere della musica, il piacere dei talenti che hai, ma tutto fluisce da quella solidità che trovi nella fede, nella dipendenza e arresa completa a Dio. Questa è fede. E io ti invito a riconsiderare la fede. Perché molti non vivono la fede di Dio, perché pensano che è solo un'attività religiosa che ci si ritaglia nel proprio tempo, settimanale, magari la domenica andando in chiesa, o nella propria giornata facendo delle attività religiose, quale la preghiera e la lettura della Bibbia. No, la fede non è ritagliarsi un tempo e avere un aspetto della tua giornata vissuto con Dio. No, la fede è fonderti completamente in Cristo e sentire Cristo completamente in te. Infatti l'Apostolo Paolo, proprio nella stessa lettera, dice a un certo punto mettete alla prova la vostra fede. In 2 Corinzi, al capitolo 13, versetto 5, dice esaminatevi per vedere se siete nella fede. Mettetevi alla prova. E poi dice non riconoscete che Gesù Cristo è in voi? A meno che l'esito della prova sia negativo. Vedete, oggi noi viviamo una prova, è la prova della nostra fede. E in questo tempo, in questa stagione, noi possiamo esaminare noi stessi e renderci conto quanto siamo veramente arresi a Dio, quanto dipendiamo da Lui, quanto Lui è in noi. L'Apostolo Paolo dice, non riconoscete che Gesù Cristo è in voi, se tu riconosci che Cristo è in te e quindi hai pace, hai sicurezza, nonostante le circostanze siano terribili, allora lì puoi dire sì, io ho fede. Ma se non hai questa fede, l'accesso alla fede non è così difficile, non è così impossibile, non è per una nicchia. È un'elite di persone, la fede è per te, è accessibile e comincia dal rinunciare a quella tua autosufficienza, comincia dal rinunciare alla tua indipendenza, comincia con un dialogo con Dio. E io voglio invitarti in questo momento, proprio ora, ad aprire il tuo cuore e a ricevere Cristo nella tua vita, a vivere la trasformazione da una condizione di autosufficienza e indipendenza a una condizione di arresa totale. Quindi se questo è il tuo desiderio e non l'hai mai fatto prima d'ora, io voglio invitarti ad arrendere il tuo cuore a Gesù, perché Lui ti vede, in questo momento Lui ti vede, io no, ma Lui ti vede, Lui ti conosce per nome e Lui vuole rendere la tua vita stabile in questa stagione, in questo giorno. Se questo è il tuo desiderio, voglio pregare con te, anzi voglio guidarti in una preghiera. E quindi ti invito a ripetere queste mie parole, falle tue, fa che siano non la mia preghiera per te, ma la tua stessa preghiera verso Dio, il tuo aprire il tuo cuore a Dio e invitarlo nella tua vita. Lo vogliamo fare insieme. Chiudi i tuoi occhi dove ti trovi e ripeti con me. Signore Gesù, affido a te la mia vita. Perdona i miei peccati e rendimi stabile. Metti pace nel mio cuore e guida le mie giornate. Grazie Gesù per quello che tu hai fatto per me. Ti invito ora nel mio cuore e ti invito ora a trasformare la mia vita. Amen. Amen. Se hai fatto questa preghiera, io ti invito a continuare questo dialogo con Dio. Questo è avere fede, dipendere da Lui. Dialoga con Lui. Continua ad aprire il tuo cuore a Lui e Lui trasformerà la tua vita. In questo tempo, come ho già detto prima, viviamo una serie di stati d'animo, paura, stress, ansia. E prima di parlare di queste cose, voglio che noi considerassimo le parole di Gesù. Gesù a un certo punto, interrogato da un fariseo, alla domanda che gli è stata posta, qual è il comandamento più grande, ha risposto con queste parole. Le troviamo in Marco, al capitolo 12, versetto 30. Gesù dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. Ve lo rileggo, vedete quanto è coinvolgente l'amore che Dio desidera da parte nostra nei suoi confronti. Gesù dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua. Vedete, anche questi versi, e poi Gesù aggiunge che questa è proprio anche la sintesi di tutta la parola di Dio, tutte le scritture, tutta la legge è riassunta in queste parole. Questo è il desiderio di Dio. E se vuoi riassumere in una frase che cosa dice questo libro, è proprio questo, ama Dio e vivi una relazione con Lui. Ed è Gesù a descrivere questo amore e non si limita a dire ama Dio. Avrebbe potuto farlo, ma fa questo elenco per farci comprendere quanto totalizzante è l'amore che noi dobbiamo vivere per Dio. Totalizzante nel senso che coinvolge ogni sfera della nostra persona, la nostra mente, il nostro cuore, le nostre forze, la nostra anima, tutto di noi deve amare Dio. E quando tu comprendi che questo è l'amore, che è veramente il vincolo di appartenenza a Dio e comincia a beneficiare di questo amore, ti rendi conto che ancora una volta Gesù ha ragione. Il bisogno dell'uomo, la base solida per ogni vita su questa terra è l'amore totalizzante nei confronti del suo creatore e del suo padre. E io ti voglio invitare a vivere questo tipo di amore. E in questo amore noi troviamo sicurezza anche in tutto quello che stiamo vivendo. E attraverso questo amore abbiamo la possibilità di dire con l'Apostolo Paolo, sì, siamo tribolati, ma non ridotti all'estremo. Siamo perplessi, ma non siamo disperati. Possiamo andare avanti con il resto delle parole che l'Apostolo Paolo dice. Siamo perseguitati, ma non abbandonati, non abbandonati, Dio è con noi. Noi viviamo in un vincolo di amore, è la storia di amore più bella che ci possa mai essere, è la storia di amore più bella che tu possa vivere, l'amore con il tuo stesso creatore, perseguitati ma non abbandonati, abbattuti, dice l'Apostolo Paolo, abbattuti, sì, ma non distrutti. Vedete, noi possiamo in altri termini tradurre queste parole dell'Apostolo Paolo con quel detto che a volte si usa, io mi piego ma non mi spezzo. Ecco, questa è la forza del credente, si piega, si può piegare, ci stiamo piegando in questa situazione, ma non ci spezziamo, non siamo distrutti, non siamo arrivati all'estremo e non arriveremo mai all'estremo nel nome di Cristo Gesù. Paura, stress, ansia, sapete da dove partono? Da qui, dalla mente. Ognuno di questi stati d'animo, la paura, il terrore, parte dai pensieri che noi alimentiamo. Ciascuno di questi stati d'animo, se pensate anche allo stress o all'ansia, partono da pensieri che hanno a che fare col nostro futuro. Magari ascoltiamo delle notizie e cominciamo a immaginare le ripercussioni sulla nostra vita, sulla vita dei nostri cari. Cominciamo a preoccuparci per i nostri figli, cominciamo ad entrare in ansia perché non riusciamo a capire come uscirne, come risolvere. È tutto più grande di noi e siamo schiacciati da questi pensieri. E sapete cosa ci dice Gesù oggi? Gesù oggi ci ricorda e dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Vuoi bloccare la paura? Vuoi bloccare l'ansia nella tua vita? Vuoi bloccare lo stress? Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Gesù non dice con la tua mente, dice con tutta la tua mente. Ed è bellissima come espressione, perché sta dicendo con ogni pensiero, filtra ogni pensiero, filtra ogni prospettiva che ti dai, filtra ogni input che ti viene esternamente, comincia a macinare nella tua testa. Ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Questa è una via d'uscita, è una via sicura per scappare dalle ansie, dalla paura, dal terrore, dallo stress. Rimodella i tuoi pensieri alla luce di quello che dice la parola di Dio. Quando vengono pensieri che hanno a che fare con il tuo futuro e sono pensieri di terrore, di paura, confessa le promesse di Dio. Sapete perché l'adorazione è un mezzo straordinario? Perché quando noi adoriamo, confessiamo la parola di Dio. Confessiamo la verità di Dio per le nostre vite, confessiamo nella nostra casa. Io ti invito in questi giorni, metti musica di adorazione, mettila nel tuo stereo, nella tua televisione, metti musica di adorazione che possa da quei dispositivi non uscire solo notiziari e bollettini di guerra. E con questo non voglio dire che non dobbiamo essere informati, ma non essere oltremodo informato e non fare in modo che la tua mente assorba solo pensieri che hanno a che fare con le circostanze che ti circondano, perché tu non sei le circostanze che ti circondano. Tu sei un figlio di Dio, tu sei appartieni a Cristo Gesù e la tua vita rimane stabile nel momento in cui tu proteggi i tuoi pensieri. Gesù ti dice: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente. Sostituisci quei pensieri malvagi. Quali sono? Che non avrai più lavoro, che sarà incerto il tuo sostentamento, che non potrai vivere lo stesso stile di vita che hai portato avanti fino ad ora. Quali possono essere le tue paure? La malattia? L'incertezza di quello che ti presenta il domani? L'incapacità di sostenere un peso come quello che stai sostenendo in questi giorni, dei tuoi figli a casa, degli impegni che si sono completamente sconvolti e stravolti? Cosa sta assillando la tua mente? Rinnova i tuoi pensieri. Inserisci nella lista di cose da fare quotidiana la confessione delle promesse di Dio. Io sto confessando ogni giorno il verso che ho condiviso anche con voi domenica scorsa, e lo voglio confessare per la tua vita, il Salmo 46. Memorizzalo come l'ho fatto io e ripeti a te stesso: Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità. Ogni giorno lo sto ripetendo nella mia vita e trovo rifugio, trovo forza, trovo aiuto, e so che anche tu puoi trovare rifugio, forza, aiuto in Dio, confessando le verità della sua parola. In Romani, al capitolo 12, c'è scritto questo verso che ha a che fare proprio con la nostra mente, dice: siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Sapete cosa significa questo verso? Significa che la nostra vita può essere modellata e condizionata dai nostri pensieri. Oppure I nostri pensieri possono essere rinnovati e la nostra vita trasformata perché è stabile nei pensieri che Dio ci dà, stabile in ogni tempo, in ogni stagione, perché conosciamo la sua volontà e ne abbiamo piena la mente. Sai che tu hai una vita davanti che è prestabilita da Dio. Sai che puoi confessare che ogni tuo giorno è già segnato e Dio ha un proposito per ogni tuo giorno. Sai che puoi confessare quello che c'è scritto in Efesini 2, che tu sei creatura di Dio. Sei creato in Cristo Gesù per fare le opere buone che Lui ha precedentemente preparato per te. Non c'è nulla che sconvolgerà il piano di Dio nella tua vita. Se Dio ha determinato che tu vivrai e farai determinate cose, nulla potrà mai scuotere il piano di Dio e ti puoi rifugiare nelle sue promesse. Dio dice che Lui è la tua guarigione, Dio dice che Lui è la tua liberazione, Dio dice che Lui è la tua vittoria, che Lui è il tuo rifugio, che Lui è il tuo riparo, che Lui è il tuo aiuto. Confessa queste cose, rinnova i tuoi pensieri e la tua vita sarà trasformata di conseguenza. Voglio concludere leggendovi quello che c'è scritto sempre in Romani, al capitolo 8, al versetto 32, dice: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica, chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato, è vivo, è alla destra di Dio, ha potenza, ha potere, ha autorità e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sentite ora, sarà forse la tribolazione? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. Nessuna di queste cose ci può separare dall'amore di Dio. Perché sapete cosa? Quando Gesù descrive l'amore, che Lui vuole che noi viviamo per Dio, sta anche già descrivendo l'amore che Dio ha per noi. Dio ama noi con tutta la mente. Dio ama noi con tutto il cuore. Dio ama noi con tutta la forza. Pensate alla forza di Dio. Dio ci ama con tutta la sua forza, non con una parte della sua forza, con tutta la sua forza. Lui ci ama, Lui ti ama, Lui ti ama con tutta la mente, la forza, l'anima, con tutta la mente, con tutto, l'ho già detto, mente, anima, forza. E cuore, Lui ama te completamente in una maniera totalizzante e in quell'amore tu puoi essere al sicuro perché nell'amore non c'è paura. Vogliamo insieme stamattina bere il vino e mangiare il pane, simboli di quel sacrificio che Gesù ha fatto per noi. E io voglio invitarti a considerare questo, a considerare questi versi che si trovano in 1 Giovanni, al capitolo 4, versetto 10. Li potete leggere con me e dice: in questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Vedete, questa è un'altra evidenza biblica del fatto che l'amore non parte da noi. Sebbene si può riassumere la parola di Dio nel comando ama il Signore Dio tuo, c'è un'altra cosa che ci rivela la parola di Dio, è che noi siamo amati da Dio ed è Lui l'iniziatore di questo vincolo d'amore, di questa relazione. E come ha manifestato il suo amore per noi? Mandando il suo figlio a morire per noi, a morire per i nostri peccati, a morire per i nostri fallimenti, a morire per la nostra ribellione e la nostra autonomia e la nostra autosufficienza. Lui ha portato queste cose, come anche ogni nostra malattia, su quella croce. E in virtù di questo gesto, il gesto più grande di amore, noi ora possiamo entrare alla sua presenza e vivere il privilegio più grande che ogni uomo può vivere su questa terra. Il privilegio più grande di un uomo su questa terra, sai qual è? Il privilegio più grande è avere una relazione con il suo creatore, il Dio vivente. Io voglio che dovunque ti trovi in questo momento, tu possa celebrare con me quanto Dio ha fatto e ricordare con me quello che è stato il suo sacrificio sulla croce, il suo essere torturato, il suo essere appeso, il suo essere inchiodato, il suo soffrire per noi. E considerando la sua sofferenza, sappiamo che lui comprende la nostra sofferenza. E prendendo il pane e il vino in questo momento, noi possiamo sentirci appartenenti a lui. Questi sono simboli di appartenenza. E io ti invito a prendere il pane in questo momento e a considerare che come questo pezzo di pane lo posso rompere, ed è questo il gesto che Gesù ha fatto nell'ultima cena, così il corpo di Gesù è stato dilaniato, è stato rotto per te, per me, per la nostra salvezza. E il vino è simbolo del suo sangue versato. Il suo sangue ci dà l'opportunità di essere lavati dei nostri peccati, purificati di ogni colpa e ci dà la protezione di Dio. Io vorrei che oggi noi celebrassimo la cena del Signore nella consapevolezza che la cena del Signore ci ricorda anche la Pasqua, la notte nella quale il popolo di Israele è stato liberato dalla schiavitù degli egiziani. E in quella notte Dio ha permesso a loro di essere protetti attraverso il sangue che loro avevano messo sugli stipiti delle loro case, delle porte delle loro case, ed era il sangue dell'agnello, simbolo del sangue migliore, del sacrificio più grande e eccellente di Gesù Cristo. Lui ha versato quel sangue oggi è per noi simbolo di protezione. Vogliamo in questo momento pregare. Padre, io prego per questo tempo che come Chiesa viviamo. Voglio pregare nel nome di Cristo Gesù affinché tu possa perdonare i nostri peccati e darci la grazia di sentirci protetti e al sicuro alla tua presenza. Una presenza che è resa possibile per quel sacrificio che tu hai fatto per noi. Vogliamo benedire il pane e vogliamo benedire il vino in questo momento e vogliamo prendere questi simboli nella consapevolezza che questo ci ricorda l'appartenenza a te di cui possiamo godere e l'appartenenza anche gli uni agli altri. In questo momento celebriamo insieme questa cena con i nostri fratelli, con le nostre sorelle che sono lontani fisicamente ma vicini nella fede e nello Spirito Santo. Grazie Gesù. Amen. Amen. Possiamo partecipare alla cena, possiamo prendere il pane, possiamo prendere il vino, possiamo pregare insieme come famiglia e adorare il suo nome. Facciamolo.